Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il nostro paese sta attraversando una fase acuta, la fase acuta dell'emergenza. Ecco, allora, non siamo nella condizione, lo voglio chiarire, di poter allentare le misure restrittive che abbiamo disposto, non siamo nella condizione di poter alleviare i disagi e di risparmiarvi i sacrifici a cui siete sottoposti. Ho appena firmato il nuovo DPCM che proroga, lo avevamo già anticipato tramite il ministro Speranza, che proroga l'attuale regime delle misure così come sono state disposte sino al 13 aprile. Quindi ufficiale, care ascoltatrici, cari ascoltatori, lo avete sentito dal presidente del Consiglio Conte che ha tenuto poco fa una conferenza stampa. E le misure restrittive sono prorogate fino al prossimo 13 aprile. In realtà l'aveva già annunciato ieri il ministro della Salute Speranza e oggi l'aveva ribadito, e adesso è arrivato appunto poco fa, ha cominciato alle 20:20 circa il presidente Conte con questa conferenza stampa in cui si è dispiaciuto dicendo che purtroppo però non si possono allentare adesso queste misure, neanche Pasqua e Pasquetta, che dice sono un rito così tradizionale per la nostra comunità, per l'Italia, però per il momento non ci sono le condizioni, secondo le valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico, per abbassare la guardia, e quindi queste misure proseguono fino a subito dopo Pasqua, poi vedremo. E tanto per fare chiarezza su che cosa queste misure prevedono, che sono quelle che sono state appunto già stabilite nei decreti precedenti, nell'ultimo decreto, capiamo però effettivamente queste regole in che cosa consistono, visto che ieri ci sono state due circolari del Ministero dell'Interno, una dopo l'altra, la seconda che ha chiarito un po' la prima e che hanno ingenerato un po' di confusione e anche un po' di contrarietà da parte di alcuni presidenti di regione e sindaci. Quindi tornerà qui a trovarci ospite il portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, Girolamo Laquaniti. Poi ci occuperemo ovviamente anche della parte più strettamente politica, nel senso dei rapporti tra maggioranza e opposizione, visto che oggi l'opposizione di centrodestra, quindi Salvini, Meloni e Tajani, hanno incontrato il presidente del Consiglio Conte per fare le loro proposte. Capiremo un po' quali sono gli elementi di queste proposte, anche come è andato questo incontro. Dopodiché continuano le trattative naturalmente tra il governo italiano e l'Unione Europea per formare appunto questo fondo comunitario per aiutare i vari stati per questo impatto, forte impatto economico dovuto al coronavirus. Poi molte altre cose, non vi anticipo tutto come sempre, e voi naturalmente non perdete un solo minuto di Effetto Notte, in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo. 348 239 6666 è sempre il numero per i vostri commenti via WhatsApp o SMS, 349 238 6666, altrimenti c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, e durante il giorno, lo sapete, Twitter per alcune anticipazioni è Roby con la Y linetta bassa Giordano. Il coronavirus in Italia, il presidente del Consiglio Conte firma il nuovo decreto per prorogare sino al 13 aprile le misure restrittive. Per ora dice non possiamo allentare i disagi, altrimenti vanifichiamo gli sforzi. Pochi irresponsabili danneggiano tutti. Sale intanto il numero dei contagi, ma anche quello dei guariti. In Italia cala il numero dei morti, forte l'appello a non far uscire i bambini. Le misure economiche, telefonata tra Conte e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che annuncia 100 miliardi per contrastare la disoccupazione e finanziare la cassa integrazione. Il sito dell'INPS in tilt, 100 domande al secondo dei lavoratori autonomi per chiedere i 600 euro, blocco anche per un attacco hacker. Stati Uniti, sono oltre 4.000 i morti da coronavirus, di cui 1.550 a New York, con 190.000 contagi accertati in tutto il paese. E i 007 americani rivelano dalla Cina numeri falsi su contagi e vittime. Sport, l'UEFA allenta il fair play finanziario per aiutare i club, forse in estate le coppe europee, intanto viene cancellato il torneo di Wimbledon. Partiamo quindi dalla conferenza stampa di poco fa, vi dicevo, nella quale Conte ha ufficializzato di aver firmato un nuovo decreto per prorogare le misure restrittive sino al 13 aprile. Il nostro paese sta attraversando una fase acuta, la fase acuta dell'emergenza. Ecco, allora, non siamo nella condizione, lo voglio chiarire, di poter allentare le misure restrittive che abbiamo disposto, non siamo nella condizione di poter alleviare i disagi e di risparmiarvi i sacrifici a cui siete sottoposti. ho appena firmato il nuovo DPCM che proroga, lo avevamo già anticipato tramite il ministro Speranza, che proroga l'attuale regime delle misure così come sono state disposte sino al 13 aprile. Poi sempre Conte ha detto non possiamo fermarci ora. Ci rendiamo conto che vi chiediamo un ulteriore sforzo, un ulteriore sacrificio, ma questo lo dobbiamo afferrare tutti. Se noi smettessimo di rispettare le regole, se iniziassimo ad allentare queste misure, tutti gli sforzi sin qui fatti sarebbero vani. Quindi addirittura pagheremo un prezzo altissimo, perché oltre al costo psicologico, al costo economico, sociale che sin qui stiamo affrontando, saremo ricostretti a ripartire di nuovo. Un doppio costo, non ce lo possiamo permettere. È orgoglioso di questa Italia, si è detto oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un colloquio telefonico con il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nel giorno del sopralluogo all'ospedale allestito alla Fiera di Bergamo. Un'Italia che, avete sentito, non deve allentare le misure di sicurezza, come ha ribadito Conte, di fronte a numeri che ci dicono che l'emergenza non è ancora alle spalle, soprattutto in Lombardia. Più guariti del giorno prima, mentre nelle ultime 24 ore il contagio registra una leggera oscillazione al rialzo e il numero dei morti resta altissimo. Il bollettino della Protezione Civile affidato al capo Angelo Borrelli resta, insomma, ancora duro. Un incremento di 2.937 pazienti rispetto a ieri. Oggi registriamo ancora purtroppo un numero di deceduti di 727 persone. Nonostante i miglioramenti, i numeri devono ancora essere stabilizzati. Per questo tutte le limitazioni alle attività, come agli spostamenti, vengono prorogate fino al 13 aprile. L'annuncio dal titolare della salute, perché il miglioramento non significa che l'allarme sia cessato, scandisce Roberto Speranza. Quelli attuali sono infatti solo primi risultati di una battaglia lunga e sarebbe un errore imperdonabile, avverte il ministro, scambiarli per una sconfitta del Covid. Per questo anche nella conferenza stampa della Protezione Civile è stato ribadito, anche rispetto alle incertezze sulla circolare del Viminale, che l'indicazione anche per i bambini è restare a casa. La prospettiva infatti è quella di una ripresa prudente e graduale. In questi due aggettivi usati dal Ministro della Salute c'è la sintesi dei prossimi provvedimenti dell'esecutivo. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Anche oggi in Lombardia sono in frenata i ricoveri, mentre il dato dei deceduti si mantiene costante. Lo ha detto l'assessore al welfare Giulio Gallera, spiegando che sono stati 394 i decessi. Crescono i numeri nella provincia di Milano, ma abbiamo ormai evidenza, ha detto Gallera, che anche nella città di Milano, dove i dati sembrano in controtendenza, c'è una diminuzione netta della pressione sui pronto soccorso e sugli ospedali. E Gallera ha confermato la contrarietà a qualunque allentamento delle misure di distanziamento, comprese le passeggiate con i bambini autorizzate dal Ministero degli Interni. Il risultato, saprete qual è stato, è che, per dire, io ho già ricevuto almeno 3 video di qualcuno che veniva con i bambini anche qua sotto a giocare a nascondino. E allora questo non va bene, perché oggi ci sono 10 persone che portano i bambini a giocare, domani ce ne sono 100. Dall'inizio dell'emergenza sono 103 i malati trasferiti in altre regioni o all'estero, lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, sottolineando che di questi 30 sono stati trasferiti in Germania. E una prima conferma sui numeri dei decessi arriva dall'Istat. Nei primi 21 giorni di marzo, al nord, le morti sono più che raddoppiate rispetto alla media 2015-19, in particolare a Bergamo, dove i decessi sono quasi quadruplicati. Ed è a Bergamo, dopo quello di Milano, che è stato allestito in 7-8 giorni un nuovo ospedale in fiera, un presidio medico avanzato che opererà coordinato dall'ospedale Papa Giovanni XXIII e voluto dall'Associazione Nazionale Alpini. Rosanna Magnano, Radio 24. Il Sole 24 Ore. Il governo intanto è al lavoro sul decreto di aprile in aiuto di famiglie e imprese. Intanto oggi il sito dell'INPS è andato in tilt per le troppe richieste di indennità da parte dei lavoratori autonomi e anche in realtà per un attacco hacker. Capiremo poi nel corso di questa puntata effettivamente che cosa sia successo. Ma passiamo intanto alle misure economiche. Il governo è al lavoro per anticipare con un decreto legge da adottare subito le misure più urgenti per dare liquidità alle imprese. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontra le opposizioni a Palazzo Chigi e anticipa le mosse dell'esecutivo. Il provvedimento, spiega alla Camera il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, punta a rafforzare le misure per le imprese consentendo di erogare garanzie ulteriori per complessivi 200 miliardi. E il rilascio di garanzie, puntualizza Gualtieri, sarà fino al 90% per importi di finanziamento anche molto significativi a tutte le imprese italiane. Siamo quindi pienamente al lavoro per assicurare complessivamente un intervento a sostegno della liquidità che ci attendiamo libererà risorse al servizio dell'economia reale per ben oltre 500 miliardi. Il decreto sulla liquidità dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri già venerdì. Il governo, dice Matteo Salvini, dopo l'incontro con Conte, presta attenzione alle necessità reali. C'è stato un ascolto di quello che non sono le proposte della Lega o del centrodestra, ma il grido d'aiuto che arriva dall'Italia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sempre il coronavirus fa crollare il mercato dell'auto italiano. Le immatricolazioni a marzo sono state 28.300, cioè l'85% in meno rispetto allo stesso mese del 2019, meno 90% le vendite di Fiat Chrysler a marzo in Italia. E scendono in campo in Germania anche gli intellettuali per chiedere un atteggiamento di maggiore solidarietà nei confronti dei paesi in difficoltà per l'emergenza coronavirus. Se il Nord non aiuta il Sud, non perde solo se stesso, ma anche l'Europa, scrivono in un appello comune intellettuali, politici ed economisti tedeschi, schierandosi a favore dei coronabond. Le borse europee chiudono in forte calo, Parigi meno 4,3%, Francoforte meno 3,94%, Londra meno 3,83%, Madrid meno 2,8%. A Piazza Affari il FTSE MIB ha lasciato sul terreno il 3%, anche Wall Street in calo dopo che il presidente americano ha messo in guardia sulla possibilità che i morti da coronavirus negli Stati Uniti possano raggiungere quota 240.000. Wall Street, dicevo, peggiore, il Dow Jones perde il 4,02%, il Nasdaq cede il 3,83%, lo Standard & Poor's lascia sul terreno il 4,33%. La corsa del nemico invisibile verso il traguardo del milione di contagiati continua. Attualmente si registrano oltre 885.000 casi di coronavirus nel mondo con 44.000 morti. Ammesso che i numeri ufficiali siano reali, in un rapporto dell'intelligence statunitense si afferma che la Cina ha nascosto la reale portata dell'epidemia, dichiarando cifre false sia sui contagi sia sulle vittime. Cina, che ha 82.000 casi contro i 190.000 degli USA. Attraverseremo due settimane molto dolorose, ha avvisato il presidente americano Trump, che ora non minimizza più e dice non è un'influenza. Si prevedono da 100.000 a 240.000 morti e un picco a metà aprile. Ma il virus continua la sua marcia ovunque. La Spagna è ormai ben oltre i 100.000 contagi e va a ritmi di 8-10.000 contagi in più al giorno. In Germania, dove si contano quasi 75.000 contagi, misure restrittive prolungate fino al 19 aprile. Francia con 53.000 casi. A Parigi ospedali sull'orlo del collasso. 563 morti in più in 24 ore nel Regno Unito, dove tra le vittime c'è un ragazzo di 13 anni, in Belgio la vittima più giovane dell'Unione Europea, aveva 12 anni, 134 nuovi decessi in Olanda e si guarda anche all'Africa. Ieri si contavano 48 stati su 54 colpiti dal coronavirus, ma di oggi sono i primi casi annunciati da Burundi e Sierra Leone. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come avete sentito, quindi la Cina ha nascosto, secondo l'intelligence americana, la reale portata dell'epidemia del coronavirus. Poi ne parleremo collegandoci con gli Stati Uniti. Un'altra notizia che riguarda la Cina è la contea di Jian nelle Henan, confinante con l'Hubei, cioè l'epicentro della pandemia, è stata sottoposta questa contea a isolamento. 600.000 persone dovranno avere permessi speciali per uscire di casa o per andare al lavoro. Dunque ancora la Cina non è fuori dall'emergenza. E poi un ascoltatore chiedeva in questi giorni: ma dei Balcani non si parla mai? Vi do qualche dato. In Serbia nelle ultime 24 ore sono stati accertati altri 160 contagi da coronavirus, col totale salito a 1060. Come hanno riferito le autorità sanitarie, si sono registrati anche 5 nuovi decessi, che sono ora in tutto 28. E fra le vittime figura il segretario di Stato al Ministero dell'Ambiente, Branislav Blazic. E sono arrivati oggi in Bosnia e Erzegovina 2.500 test per il Covid-19, che fanno parte degli aiuti del valore di 7 milioni di euro destinati al paese dell'Unione Europea. Per quanto riguarda la Bosnia, stando agli ultimi dati diffusi oggi, si registrano 455 contagi da coronavirus e 13 decessi. Poi, per staccarci per un attimo dal coronavirus, ma con una notizia anche questa terribile, un nuovo attentato dinamitardo contro una RSA, una casa di riposo a Foggia. Una bomba è stata fatta esplodere poco fa nel pomeriggio davanti alla RSA per anziani, attualmente chiusa per fortuna Il Sorriso, in via Vincenzo Acquaviva a Foggia. Si tratta della stessa struttura che ha già subito un attentato dinamitardo nel gennaio scorso. La residenza è gestita dai fratelli Luca e Cristian Vigilante, testimoni dell'accusa in un processo della direzione distrettuale antimafia di Bari contro presunti appartenenti a un clan dedito all'estorsione. La deflagrazione ha divelto la sala cinesca, ha sventrato l'insegna luminosa del locale, perché i delinquenti, i mafiosi non si fermano davanti a nulla. Due ricerche legate al coronavirus: nonostante i test negativi che ne sanciscono la guarigione, molti malati di Covid-19 sottoposti in Cina a un periodo ulteriore di quarantena dopo la malattia sono tornati a mostrare segni della presenza del virus anche a fino 8 giorni dopo la scomparsa dei sintomi. Lo indica una ricerca dell'ospedale di Pechino e dell'Università di Yale pubblicata sul Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology. Sono stati riportati infatti alcuni casi dove un paziente potrebbe aver contagiato persone a lui vicino anche dopo un'apparente guarigione dall'infezione, il che fa pensare che vi sia una finestra di diffusione dopo la guarigione clinica del paziente. Altra notizia è questa: l'epidemia di Covid-19 corre più rapidamente col freddo secco, mentre rallenta nei climi molto caldi e umidi. Per questo nei prossimi mesi il rischio potrebbe aumentare in vaste regioni dell'emisfero sud del mondo. Lo indica uno studio dell'Università Statale di Milano, che ha analizzato su scala globale le relazioni tra casi di Covid-19 e condizioni climatiche. I risultati sono consultabili su MedRxiv, il sito che permette di condividere articoli scientifici, che però devono essere ancora sottoposti a revisione prima della loro pubblicazione. Per chiudere lo sport, l'UEFA rallenta il fair play finanziario per aiutare i club per quanto riguarda il calcio. Forse ci saranno in estate le coppe europee. E poi nel frattempo per il tennis è stato cancellato il torneo dei tornei Wimbledon, e parleremo anche di questo nel corso di questa puntata. Intanto prendiamoci una piccola pausa per aggiornare i pochi, le poche che per questioni di lavoro o emergenze particolari sono su strade e autostrade. Torno ratta con la Folgore. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Moltissime le notizie, naturalmente le avete sentite in sintesi, la sintesi della giornata poco fa. Adesso cominciamo invece con gli ospiti ad affrontare alcuni temi in particolare, sempre inevitabilmente legati a questa pandemia che ormai permea un po' tutte le nostre vite, purtroppo, e speriamo di poterne uscire il prima possibile. 349-238-6666 è il numero per i vostri sms e whatsapp, per i vostri commenti e anche in particolare per le vostre domande sintetiche. Mi raccomando, queste domande che volete fare tra poco al portavoce dell'Associazione Nazionale di Funzionari di Polizia, che torna qua graditissimo ospite effetto notte per chiarirci un po' le idee, visto che poco fa vi ho detto che è stato firmato, adesso lo sentiremo ancora dalla voce di Conte, il nuovo decreto che proroga le misure restrittive. Per i vostri commenti c'è anche come sempre la pagina Facebook di Effetto Notte. Vedo in questo istante un aggiornamento ulteriore dell'Istituto Americano John Hopkins University sui contagi nel mondo, che hanno superato quota 900.000, esattamente sono 911.000 i contagi nel mondo e il numero dei morti è superiore ai 45.000. Il nostro paese sta attraversando una fase acuta, la fase acuta dell'emergenza. Ecco, allora non siamo nella condizione, lo voglio chiarire, di poter allentare le misure restrittive che abbiamo disposto, non siamo nella condizione di poter alleviare i disagi e di risparmiarvi i sacrifici a cui siete sottoposti. Ho appena firmato il nuovo DPCM che proroga, lo avevamo già anticipato tramite il ministro Speranza, che proroga l'attuale regime delle misure così come sono state disposte sino al 13 aprile. Ecco, così mi avete sentito ribadire, fino al 13 aprile il governo proroga, l'aveva già annunciato ieri il ministro della Salute Speranza, lo ha ribadito oggi, e poi alla fine, intorno poco dopo le 20, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte, che ha ufficializzato la firma di questo nuovo decreto che serve appunto a prorogare le misure restrittive che sarebbero state in scadenza il 3 aprile, praticamente tra 2 giorni, e ha illustrato il nuovo decreto, anche se le regole insomma sono quelle del praticamente che erano in vigore fino a oggi. Però su alcune regole evidentemente non c'è ancora una totale certezza, chiarezza. Lo hanno dimostrato in qualche modo le due circolari del Ministero dell'Interno di ieri, la seconda che ha dovuto un po' chiarire la prima, la un po' corretta, perché avevano generato un po' di confusione e anche qualche polemica e un po' di contrarietà da parte di alcuni presidenti di regione e anche di sindaci, per esempio sulla possibilità di un genitore di portare in una breve passeggiata vicino casa un figlio minore, sulla famosa corsetta. Però intanto sentiamo qualche altro passaggio della conferenza stampa di Conte. Mi dispiace che queste nuove misure capitano in un momento particolare, anche in un momento, una solenne festività a noi tutti italiani cara, la Pasqua. È un momento di serenità, condivisione, anche di amore, di pace tra di noi, ma saremo purtroppo, lo dico particolarmente dispiaciuto, personalmente dispiaciuto, saremo purtroppo ad affrontare anche questi giorni di festività con questo regime restrittivo. E poi, a proposito dell'eventuale allentamento delle misure, sentiamo che cosa ha detto Conte. Nel momento in cui avremo, valutando quello che succederà e quindi la curva epidemiologica nei prossimi giorni, in queste due settimane, e noi inizieremo ovviamente a valutare ed abbracciare anche la prospettiva di entrare nella fase 2. La fase 2 è quella di convivenza col virus, di adottare delle misure, diciamo, che pian piano portano all'allentamento, per poi entrare nella fase 3, che è quella dell'uscita dall'emergenza. E speriamo che arrivi presto questa fase 3. Intanto saluto Girolamo Laquaniti, che è appunto portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, che torna qui con mio grande piacere, spero anche vostro, qua ospite di Effetto Notte. Buonasera, dottor Laquaniti. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Allora, intanto diciamo che ci sono tre regioni in Italia, che sono la Sicilia, la Campania e il Friuli Venezia Giulia, in cui proprio è vietato uscire di casa anche per una passeggiata vicino alla propria abitazione o fare attività motoria all'aperto. Altre due regioni che hanno delle misure molto restrittive rispetto anche ai decreti governativi sono Lombardia e Veneto, anche se viene specificato, viene solo indicata con rigore quella che si intende una distanza nei pressi dell'abitazione, cioè 200 metri per fare una piccola uscita o anche una corsetta, anche se anche su queste cose c'è un po' di confusione, cioè magari appunto chi non sa se lo può fare, non può fare, chi guarda con occhi infuocati, chi magari fa la corsetta, insomma, Laquaniti, in virtù anche di questo ulteriore decreto, che è semplicemente di proroga delle regole che ci sono state finora, che cosa possiamo prima in generale premettere? Dobbiamo premettere che questa nostra conversazione deve tenere conto anche di quello che il Presidente del Consiglio ha detto durante la conferenza stampa, perché in un passaggio su una domanda specifica il Presidente ha sottolineato che non ha inteso dare la possibilità della passeggiata, ma che semplicemente è consentita l'uscita del genitore con il figlio, del singolo genitore con il figlio, allorquando si rechi fuori per i motivi consentiti dalla DPCM. Questo quindi, questa dichiarazione di questa sera, ci devono far supporre necessariamente che in questo caso allora neanche la corsetta sarebbe consentita. Bisogna verificare se nella DPCM che ha appena firmato ci sono evidenti precisazioni su questo tema che pare stare il cuore a tante persone, perché quando, ripeto, durante la conferenza ha detto non si può fare la passeggiata fino a se stessa, quindi il bambino può uscire nel momento in cui il genitore ha da fare e non può tenere il figlio da solo a casa, questa interpretazione, diciamo, è nuova rispetto al panorama precedente. Quindi possiamo dire, dottor Laquaniti, che non per colpa del governo, ma insomma non c'è ancora un'estrema chiarezza, sia perché diciamo, i frangenti sono estremamente complessi, sia perché ci sono anche ordinanze diverse, perché Conte già nel decreto precedente aveva riconosciuto alle regioni la possibilità su alcuni aspetti di emettere delle ordinanze anche più restrittive di quelle del governo centrale, no? Sì, anche perché nel DPCM comunque era previsto che le disposizioni date a livello regionale dovevano poi trovare un'armonizzazione a livello centrale. Questo per far sì che in via d'urgenza i presidenti delle regioni attivassero le loro misure, ma che poi si potesse trovare una sintesi che potesse e che possa cosa di cui abbiamo tutti un gran bisogno, uniformare i comportamenti consentiti e quelli non consentiti su tutto il territorio nazionale. Il messaggio, posso dire, nella sua interezza è chiaro, nel senso che bisogna rimanere a casa. Io credo che questa situazione ci faccia comprendere una cosa fondamentalmente, e cioè che con una misura del genere nessuna legge può precisare e stabilire tutte le molteplici, le infinite, oserei dire quasi, possibilità e necessità che la vita ci pone davanti. Ci siamo trovati di fronte a una miriade di casi più disparati possibili, di casi singoli. Ecco, io credo che veramente una norma dovrebbe contenere dei principi generali forti, sapendo quali sono, come posso dire, le possibilità e le necessità indispensabili per una vita, non dico normale, ma che garantisca una qualità minima sostenibile, perché se no si cade nel problema di dover affrontare singole, personalissime situazioni che una legge per sua natura non può affrontare in questo modo. Allora, dottor Laqualiti, per quanto riguarda la passeggiata di un genitore con il bambino, ieri l'ultima circolare, quella che doveva chiarire la prima, riportava il fatto che si può camminare con figli minori un solo genitore in prossimità della propria abitazione. Sentiamo che cosa ha detto oggi durante la conferenza stampa della Protezione Civile il presidente dei pediatri italiani, Alberto Villani, nonché componente di questo comitato tecnico-scientifico che è l'organo di consulenza, diciamo, del governo. Non è questione di essere favorevoli o contrari, esiste un DPCM che chiaramente indica che non è consentito fare assembramenti, non è consentito uscire di casa se non per una motivata ragione. Quindi tutto resta esattamente com'è. Credo che comunque, qualora esistano delle situazioni particolari e si esca di casa con un bambino rispettando le norme, ma perché c'è un motivo per farlo, questo, come prima, rimane adesso. Ma non c'è nessun motivo per cui un bambino, faccio un esempio, di pochi mesi venga portato a spasso in carrozzella. Questo non c'è nessuna indicazione e non va fatto, sarebbe imprudente. E questo per il bambino in carrozzina è chiaro, insomma, meglio tenerlo a riparo in casa. Però Laqualiti, quindi a questo punto bisogna aspettare di leggere il decreto che è stato appena illustrato molto brevemente da Conte per capire anche la passeggiata del singolo intorno a casa o la corsetta? Credo assolutamente di sì, come credo che andranno aggiornate le FAQ che la Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione di tutti i cittadini e anche di noi operatori, dove ancora la parte sulla attività motoria, questo fino a pochi minuti fa era ancora quello che era presente sul sito, sembrava consentito. Poi, ripeto, io non mi permetto di entrare nel merito delle scelte normative perché non mi compete, non faccio certo il legislatore. Credo che però sia fondamentale per chi opera come forze dell'ordine avere estremamente chiare quelle che sono le attività che rientrano tra quelle consentite e quelle no, perché posso dire, nel confronto anche con cittadini che cominciano a sentire il peso delle limitazioni, il tempo che passando fa pesare ancora di più questa condizione, ecco, noi lo interpretiamo, come ci è stato indicato anche dal prefetto Gabrielli, con rigore e con umanità. Però è fondamentale che sia specificato bene ciò che è consentito e ciò che non è consentito, proprio per trovare anche dei modi per evitare incomprensioni, evitare equivoci, evitare momenti di frizione, magari dove il cittadino in buona fede è convinto di essere nel giusto. Questo è un momento, credo, dove non si debba sottilizzare, ma si debba andare a quello che è il cuore del problema, cioè il fatto di trovare un sistema efficiente ed efficace affinché tutti siano a casa. Quando si dice che la stragrande maggioranza degli italiani rispetta le norme, va benissimo, il problema, lo ripeto, è che noi abbiamo una norma che riguarda 60 milioni di italiani. Quando anche uno solo su 10 non rispetta queste norme, noi stiamo parlando di 6 milioni di italiani, sono cifre a cui noi non siamo abituati, lo ripeto, è una norma che non ha precedenti, non solo nella nostra storia repubblicana, ma neanche in tempi di guerra si trovano restrizioni alla libertà alla libertà e al movimento personale così forti. Ecco perché, come posso dire, va fatta luce e chiarezza per evitare anche quello che diceva, mi sembra, anche lei a inizio di trasmissione, cioè ormai c'è intolleranza e insofferenza anche tra le persone, quello che corre, io devo restare chiuso a casa, chiuso il negozio, faccio fatica a finire il mese e altri sembrano divertirsi correndo e ho bisogno, sbagliando ovviamente, per carità, di sfogare la mia rabbia. Ecco, per questo regole precise, rigore, comprendere quando invece quella necessità è fondamentale per evitare un danno alla persona, perché questo non solo lo tutelano le norme attuali, ma lo tutela anche la norma per eccellenza che è la nostra Costituzione, e solo in quei casi, limitatamente a quei casi, poter uscire. Quindi direi, dottor Laquanite, che qui è necessario rivederci, no? Perché ci colleghiamo naturalmente ancora a maggior ragione, visto il distanziamento sociale via radio, via etere, dottor Laquanite, via telefono, perché appunto ricordiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che questo ulteriore decreto conferma i divieti già in vigore, comprese le regole previste dalle ordinanze del Ministero della Salute e sui rientri dall'estero in temi di spostamenti, di commercio, di attività essenziali, di passeggiate, eccetera. Ma come diceva giustamente il dottor Laquaniti, essendo Conte, avendo parlato poco fa, praticamente fino a mezz'ora fa, 40 minuti fa, adesso bisogna vedere poi più nel dettaglio per non dire cose magari non corrette. Quindi io le devo dare nuovamente appuntamento il prima possibile, dottor Laquaniti, d'accordo? Per me è un privilegio, se non si stancano gli ascoltatori, è un piacere di ritornare. Okay. Il privilegio e il piacere reciproco. Grazie intanto, dottor Girolamo Laquaniti, grazie, buon lavoro e buona serata. Grazie agli ascoltatori, buonasera, grazie. Grazie, un abbraccio. Ora ci fermiamo brevemente per, come sempre, per una pausa di riflessione, di respiro, in attesa di avere ancora più chiarimenti su questo nuovo decreto che proroga fino al 13 aprile le misure restrittive. Ci sentiamo tra poco, sempre con altri temi, sempre legati ovviamente al coronavirus. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tutte le notizie più importanti qui le trovate, gli approfondimenti con gli ospiti per chiarire i temi cruciali. Roberto Giordano sempre con voi, voi state ascoltando Effetto Notte, allora siete naturalmente come sempre al posto giusto, nel momento giusto, a casa vostra, e tranne chi ha dei turni particolari di lavoro, ad ascoltare Effetto Notte. Altrimenti che ci sto a fare io qui con voi tutti i giorni a raccogliere tutte le notizie dall'Italia e dall'estero e poi a cercare di approfondire alcuni temi con gli ospiti. Adesso, dopo aver parlato con il portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia del decreto appena illustrato da Conte, il nuovo decreto, che però insomma è, diciamo, una proroga delle regole che erano in vigore fino adesso, anche se poi, come si diceva con Laquaniti, bisogna guardare poi nel dettaglio questo nuovo decreto per capire se tutto effettivamente è esattamente come prima, anche per, diciamo, le misure più legate alla nostra piccole attività quotidiane, quindi al di là del lavoro, delle imprese, delle fabbriche, di quelle non essenziali che rimangono chiuse, degli spostamenti che devono avere soltanto devono essere fatti esclusivamente se ci sono delle esigenze molto particolari, ma poi per la passeggiata, la corsetta, eccetera eccetera, ci sono ancora alcune cose da chiarire. C'è un ascoltatore, per esempio, che dice, Paolo da Milano: beh, ma allora un bambino di pochi mesi ha meno diritto di prendere mezz'ora d'aria intorno all'isolato rispetto a un cane? Allora, prima di tutto, un bambino piccolo di pochi mesi, evidentemente, ha parlato oggi il presidente dei pediatri Alberto Villani, ritenuto particolarmente delicato, quindi meglio non esporlo ai pericoli e ai rischi esterni. Un cane, soprattutto se è grande, deve fare i suoi bisognini, diciamo. Una cosa che ho notato è che devo tirare le orecchie a molti che portano i cani, non tutti, ad alcuni, che c'è un po' di anarchia col fatto che qualcuno non si sente osservato. Vedo parecchie pupù in giro quando faccio il percorso per venire al lavoro, e questo non è bello. Bisogna continuare a mantenere l'educazione e le regole civili che abbiamo sempre avuto fino a poco tempo fa da questo punto di vista. Poi sono contenta che non si sentano più notizie di chi abbandona i cani, come era successo all'inizio, che aveva questa psicosi che i cani potessero portare il Covid-19 o altro, perché in realtà guardate che sono proprio i cani che portano a spasso i padroni. Questa è una bella occasione. O a casa ci sono i gatti che con come i cani, anche con la loro inconsapevolezza totale, ci regalano un pochino di gioia, almeno loro che non hanno addosso tutta questa pesantezza e che non sanno che cosa sta succedendo, ci fanno almeno un po' sorridere. E adesso saluto la nostra Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Cara Barbara. Buonasera, anche il mio cane è molto felice, diciamo che è uno di quelli che beneficia del Covid-19, perché da quando siamo tutti in smart working lui ha la sua padrona tutto il giorno per lui, e non era mai successo. E in realtà sei più tu che benefici della sua presenza, perché ti porterà anche a spasso minimamente, no? Vicino a casa ogni tanto. Beh, giusto? Sì. Vabbè, sì. Meno male che ti porta a spasso. Allora, Barbara Fiammeri, siamo sulla politica italiana, nel senso, a partire dai rapporti tra maggioranza e opposizione in questi giorni, no? Oggi il Presidente del Consiglio Conte ha incontrato l'opposizione di centrodestra, quindi leader della Lega Salvini, la Presidente di Fratelli d'Italia Meloni e l'esponente di spicco, che ormai è braccio destro di Berlusconi per Forza Italia, Antonio Tajani. E vicepresidente. Intanto però, a proposito del riaprire e non riaprire, abbiamo sentito tutti i passaggi di Conte, abbiamo parlato con Laquaniti, sentiamo che cosa ha detto Renzi, che già più volte in questi giorni è tornato a chiedere di aprire, anzi nei giorni scorsi in un modo anche così un po' imprevisto, un po' brusco: bisogna tornare ad aprire, addirittura ritornare a scuola. Questo mi pare ormai escluso, che si torni a scuola, però sentiamo Renzi su altri aspetti. Come gestire l'emergenza non può essere affidato soltanto a un virologo. Il virologo deve cacciare il virus, deve lottare contro il virus. Contro la disoccupazione deve pensarci la politica. Allora, siccome io voglio essere molto chiaro sul tema della riapertura, che deve essere graduale, deve essere prudente, non c'è dubbio, ma deve essere una riapertura strategica per non commettere errori di ritardo che in altri settori ci sono stati, signor Ministro, non facciamo lo stesso errore che abbiamo fatto qualche anno fa, quando abbiamo dato ai tecnici il compito di decidere sulla politica. Però il Comitato Tecnico Scientifico, consulente del governo, e lo stesso Conte, il Ministro della Salute e Speranza, eccetera, insistono sul fatto che non si possono allentare queste restrizioni. Sentiamo Zingaretti, segretario del PD, nonché componente a sua volta, come anche Renzi, della maggioranza di governo, come risponde al leader di Italia Viva. Noi attendiamo ovviamente le scelte del governo sulla pianificazione, quando sarà per l'allentamento delle misure, il processo di normalizzazione. Ma io condivido chi in queste ore ha detto: stiamo parlando della vita di esseri umani e sulla vita delle persone non si scherza. E nessuna faciloneria, nessun dibattito politico che non sia supportato strettamente alle indicazioni della scienza, perché questo sarebbe veramente irresponsabile. E l'unico modo serio di pianificare quello che bisognerà pianificare è farlo sulla base della certezza scientifica. Se si molla ora, si rischia di vanificare tutti gli sforzi fatti. Quindi due posizioni diverse tra Zingaretti e Renzi, che comunque fanno parte dello stesso governo, no? Già questo, Barbara. Sì, diciamo che su questo c'è una tensione che prevale all'interno della maggioranza. Devo dire che la posizione, cioè il discorso è stare chiusi o stare aperti, cioè il discorso che fa Renzi, non devono essere i virologi a decidere, ma i virologi ti dicono semplicemente che se tu riapri torniamo al punto di partenza. Si vede purtroppo anche la Cina, che potrebbe avere un caso di ritorno. Cioè, noi abbiamo già dei casi, no? Epidemici di ritorno. Allora è chiaro che nel momento in cui tu dovrai affrontare il tema di apertura, abbiamo già visto in questi giorni, credo che i nostri ascoltatori possano verificarlo personalmente, che appena è stato allentato, è parso che allentavano, appunto, con questa circolare, devo dire, un po' assurda, sul fatto del giro del palazzo col bambino nel passeggino. Il messaggio, che neanche tanto subliminale, che è passato è: si va meglio, si comincia a allentare, e questo ha fatto sì che io sinceramente, dopo aver passato una domenica e un lunedì in una Roma spettrale, io questa mattina ho visto più gente degli altri giorni. E infatti su questo si parlava insomma delle polemiche anche dei presidenti di regione con la Quaniti, però adesso Barbara vorrei passare a quello invece che hanno proposto oggi dall'opposizione di centrodestra, a partire da Salvini. Sentiamo Salvini. Noi abbiamo portato non decine, centinaia di proposte per risolvere i problemi di oggi. Le aziende hanno bisogno di soldi oggi per non licenziare, perché non pensiamo a un'Italia fondata sull'assistenza, sul precariato, sulla povertà e sulla fame in futuro. E poi Giorgia Meloni. Abbiamo ribadito la nostra disponibilità al governo, come abbiamo dimostrato di saper fare dall'inizio. Ci siamo preoccupati di aiutare l'Italia, non diciamo così, di giocare al gioco della maggioranza e dell'opposizione, però moltissime delle domande che continuiamo a fare non hanno una risposta, non l'hanno avuta neanche oggi, speriamo che la abbiano nei prossimi giorni, nelle prossime ore, perché la nostra disponibilità continua ad esserci. E poi Tajani per Forza Italia. Abbiamo chiesto al governo di risolvere le due grandi emergenze, quella sanitaria, quindi tutela della salute di tutti i cittadini italiani, al nord e al sud. Manca materiale sanitario, mascherine, guanti, camici negli ospedali, mancano anche le bombole ad ossigeno. Abbiamo ricordato al Presidente del Consiglio che c'è addirittura un mercato nero delle bombole ad ossigeno vuote. Come sta funzionando il rapporto maggioranza-opposizione, Barbara, in questi frangenti così complicati? Ma direi che è un rapporto obbligato, nel senso sono obbligati a collaborare, perché il Paese non capirebbe un'opposizione che in un momento del genere si mettesse a fare a contrapporsi al governo, e allo stesso tempo non capirebbe un Premier che non vuole collaborare con l'opposizione che si offre di farlo. Quindi direi che sono obbligati a collaborare. Poi i frutti di questa collaborazione ancora in realtà non si vedono, perché da un lato il Premier, come dire, una serie di decisioni non sono così semplici. È chiaro che per chi sta all'opposizione è più semplice dire facciamo questo, garantiamo le mascherine, garantiamo i guanti, diamo liquidità alle imprese, e poi tra dirlo, proporlo e realizzarlo c'è di mezzo il mare. C'è una grande differenza, come sa bene chiunque abbia governato. E chiaramente la situazione è complicata. Devo dire però che non c'è dubbio che questa disponibilità manifestata da Salvini, Meloni e Tajani, e c'era anche Maurizio Lupi, non va sottovalutata, perché comunque l'opposizione, al di là di dichiarazioni che arrivano, appunto, di attacchi che arrivano al governo, non c'è dubbio che non è che si è messa a fare ostruzionismo in Parlamento, ha votato lo scostamento, ha votato il primo decreto. In questo caso ha presentato tantissimi emendamenti, però come la Meloni ha ricordato a Conte nell'incontro di oggi, Italia Viva ne ha presentati più di Fratelli d'Italia, e Italia Viva, il partito di Renzi, è un partito di governo. Maggioranza. Barbara, intanto proseguono le trattative difficili con l'Europa, con Conte che dice, soprattutto ai tedeschi, no, perché la Germania, oltre all'Olanda, in particolare la Germania, che non è disponibile a questi famosi Corona Bond per sostenere questa situazione e affrontare l'impatto economico per tutta l'Europa, ha detto qui scriviamo il libro di storia, non un manuale di economia. Ancora oggi, ha detto Conte ai tedeschi, è una tappa storica come la caduta del muro di Berlino. Ha rilasciato anche un'intervista al settimanale Die Zeit, settimanale tedesco, che ha detto se siamo un'unione è momento di dimostrarlo, serve una condotta che sia commisurata alla sfida, non ci devono essere veti a priori sulle misure per l'Unione Europea, anche se la Germania ha ribadito per il momento c'è il MES, il famoso fondo salva stati. Una cosa però interessante da dire è che c'è stato un appello sempre su Die Zeit, sul giornale tedesco, di intellettuali e politici tedeschi a favore del Corona Bond, e anche che dicono se il nord, quindi i paesi del nord, non aiutano il sud dell'Europa, non perde solo se stesso ma anche l'Europa. Questo per dire che evidentemente però non tutti i tedeschi, almeno l'intelligenza, come la possiamo chiamare, della Germania, insomma, la pensa diversamente. Sì, ma di più ti dico che una parte di questi intellettuali, cioè Attenzione, non è che lo fanno per buonismo, e questo lo trovo ancora, cioè, come dire, dal mio punto di vista anche meglio. Cioè, non è un gesto semplicemente di solidarietà, c'è anche un interesse, che è un po' il discorso che si faceva quando il nord d'Italia, intendo, diceva di fare da solo e mandare, come dire, abbandonare il sud. Poi i risultati si vedono, perché nel momento in cui tu abbandoni una parte, in questo caso una parte del continente, dell'Europa, a se stessa, ci rimetti anche tu. Alla fine ti indebolisci, perché come ha detto qualcuno, l'ha detto Prodi l'altro giorno, ma alla fine gli olandesi i tulipani a chi li vendono questi tulipani? Per il momento e niente, quindi, tulipani. E pensiamo per esempio a tutti, non solo i prodotti, cioè non solo noi come consumatori, perché potrebbero anche decidere che, come dire, i cinesi, essendo 1,5 miliardi, no, come mercato, è più appetibile di quello dell'Europa dei del 60 sud. Milioni di italiani, senza dubbio. Ma non c'è dubbio che oggi, soprattutto oggi, che sembra che gli Stati Uniti abbiano abdicato al loro ruolo di potenza imperiale, ma noi rischiamo noi europei, e noi italiani per primi, ma noi europei, di essere ridotti a uno spezzatino e contesi tra cinesi, russi e americani. Chiarissimo, cioè, niente spezzatino al momento, meglio cose più leggere. Grazie cara Barbara Fiammeri, qui ci dobbiamo lasciare, è stata chiarissima. Ti abbraccio, a presto. Buonasera. Ciao Barbara, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ed un ascoltatore furio da Sydney, addirittura dall'Australia, dice: mi potresti spiegare come funzionano questi 600 euro? Adesso diventa complesso, però per chiedere questi 600 euro oggi è andato in tilt il sito dell'INPS, come adesso ci spiega il nostro Davide Colombo del Sole 24 Ore. Davide, in due minuti riesci a raccontarci che cosa è successo, perché c'è stato questo blocco, questo addirittura attacchi e hacker? Oggi ha vissuto, diciamo, una tempesta perfetta il sito dell'INPS. Ma diciamo, cioè, certo, diciamo che oggi è successo in parte quello che ci si aspettava, mi spiego. Dalla mezzanotte di ieri era possibile fare richiesta per questo bonus di 600 euro e a una serie di altre prestazioni. Per questo bonus da 600 euro una platea di riferimento di 5 milioni di potenziali beneficiari che, da casa, con una richiesta di PIN semplificato sul sito, hanno tentato di, appunto, fare domanda senza usare la procedura che si usa in tempi normali, cioè si va al patronato, si fa domanda, eccetera. Questa impennata di domande evidentemente ha creato un picco che ha retto fino a un certo punto, dopodiché c'è stato anche questo attacco hacker che i vertici dell'istituto hanno denunciato. Adesso saranno le autorità competenti a pronunciarsi sulle dimensioni e le dinamiche di questo attacco hacker, aspetteremo nei prossimi giorni di capire. Certo è che INPS ha dimostrato una debolezza di funzionamento di sistema a fronte di una quantità di domande tutta concentrata in una sola mattina, diciamo. Sono 300 al minuto, leggevo, 300 al minuto. Il presidente dell'INPS ha parlato di 100 domande al secondo in alcune fasi, quindi questo ha determinato evidentemente un forte stress del sistema. Teniamo conto che l'INPS, come tutte le strutture centrali, sta lavorando in queste settimane con una buona parte del personale in smart working. Questo ha in qualche modo determinato un ulteriore livello di fragilità. Alcuni hanno considerato se non era forse più utile chiedere un coinvolgimento della rete bancaria e postale, visto che si tratta di trasferimenti monetari sostanzialmente a una platea di lavoratori autonomi, partite IVA, lavoratori agricoli, del turismo, dello spettacolo, i cui profili, diciamo, fiscali e personali sono molto tracciati, per cui forse si poteva scegliere una strada diversa. È stata scelta questa. Il governo ha rassicurato che ci saranno risorse anche dopo l'esaurimento delle risorse appostate con il primo decreto, quindi la situazione, insomma, potrebbe rientrare, speriamo che rientri, ecco. Perché per l'appunto ne abbiamo abbastanza sul fronte delle emergenze sanitarie. Già, devo dire di sì, evitiamo anche questa emergenza. Grazie Davide Colombo, speriamo appunto che si risolva il prima possibile. Grazie e buon lavoro. A presto. Ciao, un abbraccio, ci colleghiamo invece agli Stati Uniti con Riccardo Barlam. Caro Riccardo. Ciao Roberta, buona serata a tutti. Leggevo adesso che si sono superate in Stati Uniti 200.000 casi, un aggiornamento di pochi istanti fa. Siamo arrivati in un mese da 100 casi a oltre 200.000 casi di confermati di Covid-19 e oltre 4.000 morti. Oggi è superato anche il livello di 4.000 morti. La cosa che va detta è che qui a New York le persone non si rendono forse ancora tanto conto, perché oggi era una bella giornata e si vedeva gente che andava a correre o a passeggiare allegramente lungo il mare. Può aver influito il fatto che Trump fino a 3 giorni fa diceva no, è un paese che non può essere chiuso, questo ma stiamo scherzando, e poi quando anche aveva accettato di chiudere per qualche giorno aveva assicurato che a Pasqua tutto di nuovo sarebbe tornato normale. Può essere che quindi ancora, ma anche se adesso ha cambiato idea. Sì, questi messaggi discordanti hanno sicuramente influito. C'è da dire oggi il vicepresidente Mike Pence, che è quello che guida la task force governativa, non accusa il suo capo, appunto, ma ha cominciato a accusare la CDC, che è l'agenzia federale che deve curare le malattie infettive, di aver lanciato l'allarme troppo tardi, che doveva essere lanciato secondo lui a metà gennaio, invece non è stato così. In realtà qui a New York fino a poche settimane fa si arrivava senza controlli dall'Europa, una città che è grande, un lembo di terra, ci sono 9 milioni di persone come la Lombardia, a pensare che cosa può succedere. E alla sera siamo tutti a casa, alla sera quando ci si parla con le chat, ormai si raccontano le storie di persone che si conoscono, che sono malate, familiari, amici, o purtroppo anche si cominciano anche a raccontare le persone che non ce la fanno, che non ce l'hanno fatta. Ecco. Senti, tra l'altro oggi è arrivata anche un'altra notizia dagli Stati Uniti, in realtà dall'intelligence, dagli 007 americani, secondo i quali la Cina, è un sospetto, un dubbio che poi è venuto a molti dopo un primo momento iniziale di elogio verso la Cina, della trasparenza, dell'onestà nell'aver parlato di questa epidemia, che avrebbe fornito dati falsi sia sui contagi che sui morti, che sarebbero tra l'altro meno di quelli degli Stati Uniti, dell'Italia o della Spagna. Ma quando guardate anche i dati della Russia, sono paesi dove c'è un controllo dell'informazione, e quindi ovviamente questi dati sono da prendere con le pinze. Quindi negli Stati Uniti i casi sono molti di più, semplicemente hanno cominciato a fare i test e quindi scoprono che ci sono 200.000 casi di coronavirus. Insomma, io mi ha colpito molto vedere per le strade, riconosci subito gli italiani, che sono quelli che hanno paura perché hanno vissuto già l'emergenza in Italia, hanno tutti la mascherina, e anche soprattutto i coreani o i cinesi, che sono super protetti. Ho visto famiglie di coreani che vanno con le tute come quelle del bianchino, oltre che con la maschera e guanti, addirittura usano delle maschere speciali per i bambini che hanno delle visiere davanti agli occhi per evitare i bambini su carrozzino si tocchino inavvertitamente gli occhi. Insomma, i coreani ci battono sicuramente in precisione. E gli americani invece purtroppo non tutti sono ancora così sensibili, e ci sono ahimè vittime tra i medici, tra i poliziotti che sono ancora senza mascherine e anche tra i vigili del fuoco. Tra l'altro vedevo che Andrew Cuomo, il governatore dello stato di New York, che molti acclamano come possibile candidato democratico al posto di Biden, ma lui ha già detto che non ha nessuna intenzione di farlo, di candidarsi, che è preoccupato per il fratello, che è un giornalista tra l'altro che l'aveva intervistato nei giorni scorsi perché è stato contagiato. Sì, assolutamente, il fratello Chris Cuomo, si chiama il giovane anchorman della CNN, è chiuso nel suo basement, nel sottoscala del suo appartamento, e la moglie e i figli sono al piano di sopra. Cuomo è visto come un simbolo di un politico che, al di là delle differenze di colore, in questo momento lo ascoltano in tanti perché è uno che sta facendo le cose, quindi davanti all'emergenza con un presidente che è un po' in ritardo, ha capito prima di Trump quello che stava succedendo. Lui tra l'altro ha fatto una legge, si chiama la Matilda Law, il nome della sua mamma, perché lui ha detto: io non voglio lasciare indietro nessuno, gli anziani. Si è arrabbiato col fratello che ha invitato la mamma a casa qualche tempo fa per vedere i bambini, e questa legge adesso dello Stato di New York vieta alle persone di andare in contatto con gli anziani, quindi mette in sicurezza gli anziani. Lui ha detto chiaramente che non vuole lasciare nessuno dietro. Certo. Ci sono governatori che parlano di disabili e di anziani, che quando ci sarà da scegliere chi salvare già hanno detto cosa faranno, invece lui ha detto no, qui noi siamo l'America, noi siamo questa America, noi vogliamo dobbiamo lasciare indietro nessuno. Tipo di... Chiaro. Assolutamente così. Grazie caro Riccardo Barlam, a dagli voi. Stati Uniti, da New York, un abbraccio forte a te, mi raccomando. A voi. Forza, ciao Riccardo. Ci sentiamo alle 22.